Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Si è da poco concluso il Rally Dakar, la storica competizione nota già come Parigi-Dakar, inaugurata per la prima volta nel 1979 fra Europa e Africa e arrivata quest'anno in Arabia Saudita. Oltre che per i suoi percorsi insidiosi ed estremi, a volte anche molto pericolosi, la Dakar è conosciuta per essere un banco di prova particolarmente interessante per tutti i veicoli che vi partecipano, compresi i mezzi pesanti. Nella categoria track, quest'anno si è fatta notare la presenza dei musoni, configurazione tipica delle strade americane, delle trasmissioni automatiche e di un veicolo ibrido, diesel elettrico. Ma quali sono le caratteristiche tecniche che rendono un camion particolarmente adatto a simili competizioni? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. In realtà oggi andiamo un po' fuori tema perché non ci occupiamo semplicemente di trasporti, ma parliamo di avventura, parliamo della Dakar che si è conclusa qualche giorno fa, ma anche di tutti questi raid che si sono organizzati nel tempo e che hanno visti come protagonisti i veicoli pesanti, ma non solo, i veicoli leggeri fuori strada, le moto, insomma tutto ciò che serve, è servito e servirà ancora al mondo dei costruttori anche per testare i veicoli che poi vedremo sulle strade italiane ed europee. Di questo mondo parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Gabriele Bolognini, collega giornalista, esperto di queste manifestazioni e che segue da anni appunto anche la Dakar. Buongiorno Gabriele, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Massimo. Allora, cominciamo proprio con il parlare della Dakar, visto che si è conclusa qualche giorno fa. Come è andata per i veicoli pesanti? Dunque, per i veicoli pesanti diciamo che è andata abbastanza bene, nel senso che sono poi arrivati quasi tutti a traguardo, il che vuol dire che praticamente 40 camion sono arrivati al traguardo e già quella è una vittoria, perché veramente una corsa massacrante da quando è nata ad oggi. I percorsi sono sempre stati scelti creando tantissime difficoltà appunto ai concorrenti. Dove si è corsa quest'anno la Dakar? Per la prima volta in assoluto in Arabia Saudita. Ed è stata veramente una sorpresa un po' per tutti, perché a parte che rispetto alle organizzazioni degli altri anni, come regolamenti consegnavano i roadbook due minuti prima della partenza, quindi era un percorso sconosciuto per tutti. Tanta sabbia, come si può ben immaginare, ma anche tanto pietrisco tagliente che, specie nelle prime fasi di gara, ha creato diversi problemi agli pneumatici. Ecco, entriamo un po' nel dettaglio di questa gara proprio per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Tu parlavi degli pneumatici, devono essere di serie o sono pneumatici speciali per queste competizioni? Ecco, dunque, vengono utilizzati generalmente degli pneumatici di serie e sono pneumatici off-road naturalmente, quindi per tutti quei veicoli da cava e cantiere, con delle caratteristiche speciali perché sono molto resistenti, ma strettamente di serie. Invece, per quanto riguarda le trasmissioni, cosa ci puoi dire? Dunque, quest'anno c'è stata una vera e propria, non diciamo rivoluzione, ma quasi, c'è stato un aumento notevole delle trasmissioni automatiche, cosa che prima, specialmente i piloti off-road, non apprezzavano tantissimo, no? Anche per quanto riguarda poi il pubblico, tutti quelli che operano su cava cantiere in genere proprio non gradiscono la trasmissione automatica, ma per dei vecchi retaggi diciamo pensano che sia magari più lenta, meno reattiva, mentre invece le ultime trasmissioni sono estremamente veloci e precise e superano di gran lunga diciamo l'abilità umana. E quindi il caro vecchio cambio manuale, tra l'altro questa è una caratteristica anche dei veicoli da cava cantiere, difficilmente si trovano autisti che vogliono un cambio automatico su questi veicoli. Assolutamente. è una barriera che ancora è difficile da superare per i commerciali delle varie case costruttrici, ma una volta che dimostrano sul campo come funzionano questi cambi, veramente... Certo, e quindi quest'anno c'è stata l'esplosione dei cambi automatici anche sui pesanti nella Dakar. C'è stata anche un'altra caratteristica quest'anno di rilievo rispetto al passato, e cioè quella dei cosiddetti musoni, cioè dei veicoli con la cabina arretrata, i tipici veicoli americani, tanto per intenderci, che sulle nostre strade sono praticamente inesistenti. Caratteristica questa che sta prendendo molto piede in questo tipo di competizioni, perché la cabina arretrata rispetto alla cabina avanzata dà molto più comfort per l'equipaggio, chiaramente, perché quando fanno questi grandi salti, quando nel caso della cabina avanzata si ripercuote tutto sulla colonna vertebrale dell'equipaggio, praticamente sono tutti e tre in avanti, pilota, navigatore, meccanico, dando delle botte clamorose, mentre invece la cabina arretrata è più confortevole. E poi anche per una questione di equilibri del veicolo, il peso della cabina è più centrale e quindi anche il veicolo più stabile, dà vantaggi anche rispetto alla guidabilità, per esempio, e alla manovrabilità. Ecco, tu mi hai in qualche modo già anticipato quella che è la composizione degli equipaggi a bordo dei camion in gara, ma qual è lo staff che segue di solito questi equipaggi? Insieme ai camion da gara, in genere c'è sempre un camion d'assistenza che a tutti gli effetti corre la gara, anche quello, perché deve tenere il passo anche dei camion da gara veri e propri, e anche quello ha il suo numero di gara, tra l'altro, e poi vengono conteggiati i tempi all'arrivo. Però ecco, si tratta di personale qualificatissimo ed è anche velocissimo, perché gli interventi sono veramente mirati, devono essere estremamente rapidi ed efficaci. Questo tipo di competizione era molto famoso qualche anno fa, c'erano tantissime competizioni, io ricordo ad esempio il Camel Trophy, che era un po' un punto di riferimento per tutti gli amanti del settore. Poi nel tempo sono un po' diminuite, adesso credo che sia rimasta solo la vecchia Parigi-Dakar, che oggi si chiama solo Dakar proprio perché il percorso non è più quello fisso, ma si muove ed è itinerante, come è successo quest'anno. Perché secondo te? Di Rally Raid ce ne sono altri di minore importanza dal punto di vista visivo della Dakar. La Dakar rappresenta sempre il sogno di tutti, partecipare alla Dakar. Tutti gli altri fungono un po' da allenamento, diciamo. Quindi c'è il Silkway Rally, che comunque sta assumendo sempre più importanza, dove prevalentemente partecipano team dell'Est Europa o asiatici, o per esempio tutte le varie manifestazioni dette così Bahia, che si corrono sia in Spagna che in Sud America. Poi c'è il rally del Marocco, sempre fra le dune, e il rally dei faraoni. Come ripeto, sono quasi forme di allenamento. Chi partecipa a questi rally lo fa per provare il veicolo che sarà il veicolo che correrà la Dakar. La Dakar rimane, diciamo, la più grande competizione. Nonostante le vittime che si registrano ogni anno, e come è successo anche quest'anno, tra l'altro. È come sì, con i due motociclisti, purtroppo, che i motociclisti sono i più vulnerabili, ecco. Nonostante tutto ciò, però, la Dakar rappresenta, a mio giudizio, ancora quel tipo di competizione che ti fa battere il cuore, che ti prende tantissimo, perché ecco, rispetto a un mondo così freddo e calcolato come quello della Formula 1 che è adesso, rispetto alle competizioni di un tempo, io mi ricordo la Formula 1 di un tempo era veramente avventurosa, ecco, è sparito dal resto delle competizioni, ma anche dai rally stessi automobilistici, il lato avventuroso, il lato umano che mette proprio il rapporto l'uomo con la macchina. E la natura, ovviamente, certo, che in qualche modo va affrontata con questi veicoli. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, il collega Gabriele Bolognini, giornalista esperto del settore. L'appuntamento con Container torna, come al solito, sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.